L'Istituto Geografico De Agostini presenta L'inglese per te. Primo livello. First level. Unità 4. Unit 4. Ascoltare. Listening. Quando la hall diventa una lobby. Ascoltate prima di tutto i termini che riguardano l'arrivo in albergo, la prenotazione e i vari tipi di camera. Prestate attenzione alla pronuncia esatta delle parole che si adoperano anche in Italia. Hotel. Hall. Reception. Reception desk. Receptionist. Luggage. Case. Reservation. Room. Bed. Single room. Twin room. Double room. Shower. A room with a bathroom. Suite. Gli americani chiamano in modo diverso l'atrio, il bagaglio e l'ascensore. Lobby. Baggage. Elevator. Ecco le altre parole che completano questa prima parte di lessico. Restaurant. Dining room. Lounge. Bar. Porter. Lift. Room number. Key. Ascoltare. Listening. Fino al centesimo. Ecco i numeri ordinali fino a 20. Il suono del TH finale è molto chiaro. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. Eighteenth. Nineteenth. Twentieth. E ventunesimo come si dice? 21st. È improbabile che il vostro albergo abbia 100 piani, ma ascoltate intanto l'elenco dei numeri ordinali delle decine, proprio fino a 100. 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th. Fate attenzione infine alla corretta pronuncia di pian terreno e ultimo piano all'interno di queste due brevi frasi. The bar is on the ground floor. The restaurant is on the top floor. Ascoltare. Listening. Dalla prenotazione alla firma sul registro. Ascoltate la formula per comunicare che si ha una prenotazione facendo attenzione alla contrazione del verbo avere. I've got a reservation. We've got a reservation. Gli ausiliari can, could, have hanno suoni vocalici diversi quando si pronunciano isolatamente. Se invece sono all'interno di una frase, assumono tutti e tre lo stesso suono vocalico che avete già sentito nella pronuncia dell'articolo the. Ascoltate. Can I help you? Could you speak more slowly, please? Have you got a newspaper? Have you got a room with a shower? Have you got a room with a bathroom? Inoltre, avrete notato che nell'ausiliare could la lettera L scompare. Ecco altri due esempi. Could you sign here, please? Could you write your name, please? Parlare. Speaking. Potrei avere la mia chiave? Ascoltate e ripetete le seguenti frasi facendo particolare attenzione alla pronuncia del verbo avere. Nel caso delle risposte brevi, il verbo ha lo stesso suono di quando è pronunciato da solo. Have. Have you got a room for the night, please? Yes, I have. Have you got a reservation? Yes, I have. Have you got a double room? No, we haven't. But we've got a twin room. Adesso sentirete altri modelli sull'uso di could. Ricordate sempre di ripetere durante la pausa. Have you got a room, please? Yes, sir, with shower or bathroom? Bathroom, please. Could I have a room on the top floor? Certainly, sir. We've got a double room on the top floor. Could you speak more slowly, please? We've got a double room on the top floor. Could I have my key, please? Of course, madam. Parlare. Speaking. Pane, burro e marmellata. Immaginate di ordinare la colazione per telefono e ripetete le seguenti frasi. Room service, valet service or maid service? Room service, please. I'd like breakfast in my room. English breakfast or continental breakfast? English breakfast, please. Ora immaginate che qualcuno, sempre in albergo, bussi alla porta della vostra camera. Who is it? Room service, sir. I've got your breakfast. Oh, yes. Come in. Da cosa è composta la semplice colazione continentale? Tea or coffee? French toast or croissant? Ma è molto più ricca e appetitosa e più cara la tradizionale colazione all'inglese. Fruit juice? Coffee or tea with milk? Toast? Butter and marmalade? Eggs and bacon? Cereals, cornflakes with milk and sugar. Parlare. Speaking. Pronto? Chi parla? Ripetete ad alta voce queste battute. Vi saranno molto utili per parlare al telefono. Hello, could I speak to Paul, please? Speaking. Hello, Paul. David here. Hello, could I speak to Mrs. Short? Speaking. Hi, I'm Keith Higgins. Parlando dalla camera dell'albergo, chiediamo al centralino una linea per telefonare a un ristorante e prenotare un tavolo. I'd like an outside line, please. Just a moment. Old England Restaurant, good afternoon. Have you got a table for two, please? Conversazione. Conversation. Good evening, sir. Can I help you? Good evening. My name's Holiday. I've got a reservation. Ah, yes. Could you sign here, please? Of course. room 351 on the third floor, Mr. Holliday. Thank you very much. Where's the bar? The castle bar is on the ground floor. The tower bar is on the top floor. Thank you very much. Good evening, sir. Can I help you? Good evening. My name's Holliday. I've got a reservation. Ah, yes. Could you sign here, please? Of course. Room 351 on the third floor, Mr. Holliday. Thank you very much. Where's the bar? The castle bar is on the ground floor. The tower bar is on the top floor. Thank you very much. Good morning, madam. Can I help you? Yes. Could I have room service, please? Certainly, madam. Just a moment, please. Good morning. Room service speaking. Good morning. I'd like breakfast in my room, please. Certainly, madam. English or continental breakfast? I'm sorry. Could you speak more slowly, please? English breakfast or continental breakfast? English breakfast, please. Of course, madam. What's your room number, please? 633. Oh, and have you got an Italian newspaper? Yes, we have, madam. We've got Corriere della Sera, La Repubblica and La Stampa. I'd like a copy of La Repubblica, please. Of course, madam. Thank you very much. Not at all. Good morning, madam. Can I help you? Yes. Could I have room service, please? Certainly, madam. Just a moment, please. Good morning. Room service speaking. Good morning. I'd like breakfast in my room, please. Certainly, madam. English or continental breakfast? I'm sorry. Could you speak more slowly, please? English breakfast or continental breakfast? English breakfast, please. Of course, madam. What's your room number, please? 633. Oh, and have you got an Italian newspaper? Yes, we have, madam. We've got Corriere della Sera, La Repubblica, and La Stampa. I'd like a copy of La Repubblica, please. Of course, madam. Thank you very much. Not at all. Good morning. Good morning. Are you American? Yes, I am. Are you American? Yes, I am. What floor are you on? My room's on the fourth floor. Oh, my room's on the fourth floor. Oh, what's your room number? 455. 455. My room number's 455. Oh. Good morning. Good morning. Are you American? Yes, I am. Are you American? Yes, I am. What floor are you on? My room's on the fourth floor. Oh, my room's on the fourth floor. Oh, What's your room number? 455. 455? My room number is 455. Oh? Uh-oh. Come sempre, anche la registrazione dedicata a questa unità si conclude con un esercizio sonoro. Per poterlo eseguire andate a pagina 78. Adesso ascolterete un breve elenco di numeri telefonici. Via via che li sentite, scriveteli negli spazi appositi contrassegnati da una lettera. 01-636-2894 0757-98362 02-996-8334 0763-72763 05-993-5825 0392-875-33 In questo testo un albergatore descrive il suo hotel. Ascoltate attentamente quello che dice e riempite gli spazi vuoti con le parole che mancano. Welcome to the Windsor Hotel. It's a hotel in Oxford. I'm Mr. King, the manager. In my hotel, I've got 5 double rooms and 2 single rooms. The restaurant is on the top floor. The lounge is on the first floor. Unità 5. Unit 5. Ascoltare. Listening. I 7 giorni della settimana. Per cominciare, ascoltate in quale modo gli inglesi pronunciano i due termini ristorante e caffè. Restaurant. Café. Ed ecco alcuni esempi di locali e cibi per un pranzo veloce. Coffee shop. Fish and chip shop. Fast food restaurant. Hamburgers. Hot dog. Fried chicken. Pizza restaurant. Pizza parlor. Passiamo ai 7 giorni della settimana. The 7 days of the week. Ascoltateli nell'ordine da domenica a sabato. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Quando è chiuso il ristorante? Sentite ora le due espressioni e cercate di cogliere la differenza di pronuncia tra giovedì e martedì. Closing day, Thursday. Closed on Tuesdays. Avrete notato che la parola day ha un suono diverso quando è isolata e quando è alla fine del nome del giorno. Riascoltate. Day. Sunday. Ascoltare. Listening. Com'è diverso il bicchiere americano? Tre modi per chiedere un tavolo al ristorante. I'd like a table for two, please. Have you got a table for six, please? Could I have a table for four, please? Il cameriere e la cameriera. Sentite come si pronunciano anche i rispettivi plurali. Waiter. Waiters. Waitress. Waitresses. Ed ecco la tavola apparecchiata. Tablecloth. Serviette. Napkin. Glass. 8. Spoon. Fork. Knife. Adesso ascolterete di nuovo la pronuncia britannica del termine bicchiere, confrontata con quella americana. Glass. Glass. Provate infine a distinguere la differenza di suono tra il singolare e il plurale della parola coltello. Knife. Knives. Ascoltare. Listening. Antipasto, secondo e contorno. Ascoltate con attenzione un po' di lessico gastronomico. Noterete che la parola menu porta l'accento sulla prima e non sulla seconda sillaba. Menu. Starters. A hot starter. Soup. A cold starter. Prawn cocktail. Meal. Lunch. Dinner. Supper. Brunch. Ora il piatto principale con carne e pesce e i vari contorni di verdure. Alcuni di questi vanno espressi al singolare, altri al plurale. Main course. Entree. Meat. Fish. Vegetables. Peas. Mushrooms. Spinach. Ecco vari modi con cui si chiamano, si pronunciano e si cucinano le patate, cominciando dalla differenza tra l'inglese e l'americano. Potato. Potato. Fried potatoes. Boiled potatoes. Roast potatoes. Chips. French fries. Anche nel termine tomato si avverte una variazione nella pronuncia inglese e americana. Tomato. Tomato. Parlare. Speaking. Ordiniamo le bevande. Ascoltate e ripetete la struttura che serve a formulare offerte e inviti e a esprimere richieste. Would you like the menu? Would you like the wine list? Could I have some red wine, please? Could I have some white wine, please? Could I have some mineral water, please? Have you got any vegetable soup? E cos'altro potete ordinare da bere? Have you got any beer? Provate a chiedere del pane. Could I have some bread, please? Parlare. Speaking. Prenderò prosciutto, bistecca e torta alla fragola. Ripetete le seguenti battute tra il cameriere e alcuni clienti che scelgono e ordinano gli antipasti. Would you like a starter? Yes, please, I'd like a vegetable soup. Could I have a tomato soup, please? I'll have the prawn cocktail, please. Could I have some ham, please? Have you got any melon balls? Ora passiamo alla carne. I'd like a rare steak. I'd like a medium steak. Could I have a well-done steak? I'd like some roast beef. I'll have some grilled lamb chops. Could I have some pork? Se preferite pesce, uova o insalata, imparate la pronuncia di questi piatti. Fried please. Grilled salmon. Rout. A cheese omelette. Eggs. Mixed salad. Ecco i nomi di alcuni tipi di dessert e di frutta, l'ultimo dei quali proviene chiaramente dal francese. Ice cream. Pudding. Lemon cheesecake. Strawberry. Pineapple. Cherry. Fruit salad. Black forest gâteau. Oh. parlare. Speaking. E per finire, un buon caffè. Ripetete facendo attenzione alla pronuncia tutti i nomi del caffè, compreso quello dell'espresso. An espresso, please. A black coffee without sugar, please. Two white coffees, please. Ascoltate i tre nomi della tipica bevanda superalcolica anglosassone, pronunciati rispettivamente da una voce inglese, irlandese e americana. Could I have a Scotch whisky, please? I'll have an Irish whisky, please. Could I have a bourbon, please? Ora ripetete questo breve dialogo tra il cameriere e un cliente che desidera bere un caffè al liquore. I'd like a liqueur coffee, please. Irish, Russian or Jamaican coffee, sir? I'll have a Jamaican coffee, please. Imparate a chiedere il conto adoperando i due termini, inglese e americano. Could I have the bill, please? Could I have the check, please?